dalle righe i vetri scuri cullati dal destino. Nel marketing diffuso, negli studi di notabili avvocati, col pane di chi ha i denti e si fa i cazzi suoi. Dove sono finiti i nostri eroi? Penelope che tesse la sua trama prevista e definita, cinese lì che aspetta sulla sponda il fiume della vita, col prezzo che hai pagato puoi assistere se vuoi. Dove sono finiti i nostri eroi? Non c'è nessuno a cui chiedere, un appiglio da mordere. Non c'è più tempo, finito l'incanto, finito l'incanto. Della strada dice tardi per giocare la partita, la musica riflette, sono troppe le cover da rifare. C'è un angolo nascosto che scopri se lo vuoi. Dove sono finiti i nostri eroi? Che trafiggono la mente fino a fare male, bandiere come stracci, colori che inseguono la moda, i libri con la polvere a ricordarci poi. Dove sono finiti i nostri eroi? Non c'è nessuno a cui chiedere, nessun appiglio da mordere. Non c'è più tempo, finito l'incanto, finito l'incanto. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora, abbiamo appena aperto il nostro appuntamento con Tiziano Cantatore questa sera su Blu Radio Veneto all'interno di Blu Radio Sera. Maurizio. Sì, Tiziano, subito una ballata da apripista, una ballata molto accattivante che prende immediatamente. La suoniamo così? No, no, no, parliamo di questo pezzo. Parliamo di questo pezzo. Come l'idea di questo disco? Parte da lontano praticamente. Beh, parte da lontano innanzitutto perché chiaramente questo non è il mio primo disco, certo. C'è stato la mia attività, chiamiamo artistica, è stata per un periodo interrotta in prima persona, non ho smesso di interessarmi di musica ovviamente, però di fare dischi sì. Hai cominciato nel 78 a fare dischi? Sì, anche no, prima, anche però sì. Dopo non diciamolo troppo perché sembra poi un Matusalemme. No, cioè, hai cominciato in un certo periodo. Adesso sono nei miei secondi 30 anni, quindi non mi... sì, comunque il primo disco è del 76 addirittura, poi nel 78, poi nell'82, e poi verso la metà degli anni 80 ho smesso di produrre di produrre dischi, però ho continuato a interessarmi comunque di musica, certamente, anche perché le proposte che volevo fare in quel periodo lì erano delle proposte per qualcuno oscene, non so, forse perché in quegli anni lì chiaramente andava solo un certo tipo di musica, certo. Disco music, io volevo fare un concept album sulla carta stampata, sul giornalismo, quindi... Esatto, tu sei giornalista, bisogna... Sì, anche sì. E quindi c'è stato un periodo di... Cioè non hai inciso nulla, però hai continuato a fare musica. Ho continuato a fare musica, a interessarmi di musica, e adesso diciamo che è uscito nel 2005 è uscito un CD che riproponeva appunto i dischi precedenti, e quindi c'è stato anche un po' di interesse, così limitato, ma comunque un po' di interesse. Ma c'è stato l'interesse? È cominciato ad allargarsi il campo d'azione? Si è allargato il campo d'azione, e poi nel frattempo c'erano canzoni che comunque volevano uscire, e così è nato questo disco, che è un po' un filo che ricongiunge quello che facevo un tempo e quello che è la musica che mi interessa adesso, che mi piace anche adesso, quindi un mix tra musica d'autore italiana e musica d'autore americana. Ecco perché il disco è intriso di queste cose, poi ci sono anche altre cover, poi magari ne parliamo. Quindi si apre, che abbiamo fatto sentire il pezzo I Nostri Eroi, che è una ballata, cioè una volta si chiamava, poteva essere un singolo potenziale, Tiziano, possiamo dire questo, poteva essere un singolo potenziale, ma, però non, diciamo che nessuno di queste canzoni ha questo tipo di intento, ecco, perché... diciamo non c'è l'interesse così a voler fare un disco solo per vendere, per fare un singolo che possa tirare. Sono solo canzoni che mi piace che girino nell'aria e che si ascoltino, e mi piace suonarle in giro, e quindi sì, comunque questa cosa I Nostri Eroi è un pezzo un pochettino anche tra quelli un pochettino più elettrico, esatto. E anche lì comunque si può ascoltare così questa fusione tra la musica acustica e la musica elettrica, lì ci sono si sente, non so, magari un piccolo cioè gli interventi fatti con il dobro, esattamente guitarra. Parliamo di questi interventi fatti con il dobro, parliamo di musicisti che hanno collaborato con anche, te, certamente. Antonio è uno che è qua presente, cioè, qui è il grande Antonio Mazzei, che è il mio collaboratore, senza di lui io non faccio un passo. È stato fondamentale anche per questo disco, per le armonie, per trovare, insomma, abbiamo lavorato molto bene con Antonio, ci conosciamo da tanto tempo, quindi siamo riusciti a lavorare molto bene. Anche lui è un appassionato di chitarra e di musica a tutto campo, 360 gradi, ed è questo, e questa era la persona che ci voleva, ecco, per me, perché l'interesse appunto è della musica e di questi lavori è proprio di spaziare, no? Qui abbiamo parlato dei nostri eroi, si sentono le chitarre elettriche, le Rickenbacker che suonano così, però... Che belle sono le Rickenbacker, mi ricordo Tompetti, arrivo a Tompetti. Però c'è l'intervento del dobro, quindi le chitarre acustiche, abbiamo lavorato molto sui suoni delle chitarre, è un disco che è principalmente di chitarra, ecco questo, quindi... Il nostro eroe è quello un pochino più tirato, ecco, di tutti quanti, però dopo ne sentiremo. Sì, ma l'idea di fare I Nostri Eroi, per aprire proprio la scaletta con I Nostri Eroi, perché, Tiziano, c'è la mano di Antonio che ti ha dato un input anche lui, oppure è una cosa fatta, sei partito te con quest'idea di aprire il pezzo? Diciamo che era il pezzo che doveva aprire il lavoro, questo qua, ecco, era il pezzo che doveva aprire il lavoro, perché poi... anche per creare magari un pochino più di attenzione all'ascolto di brani magari un pochino più intimi, sì. Intimisti, ecco, chiamiamolo così, però non mi piace il termine. Aprire l'ascolto, hai detto una cosa giusta, sì. Ecco, comunque è questo. Poi vabbè, c'è anche il discorso I Nostri Eroi, anche per il testo, insomma, dove sono finiti I Nostri Eroi, no? Cioè, quindi è anche un po' lo specchio di questi tempi un po' particolari, un po' strani, no? E è un... quando non ci sono eroi, quando non ci sono miti, fa sempre un po' paura, no? Sì, perché esatto. Vuol dire come perdere un pochettino la speranza, no? Di qualcosa. E invece non deve essere così, no. Non deve essere così, quindi ecco, i nostri eroi comunque dove sono finiti non lo so, però comunque qui in questo brano la speranza che comunque ritornino e ci diano veramente ancora la carica, un po' di coraggio, ecco, di tirar fuori le cose, questo ci vuole. Beh, benissimo, abbiamo capito allora com'è l'andamento di questo disco e per capire ancora meglio sentiamo un altro pezzo da disco e poi cominciamo a suonare. Ragazzi, state attenti che fra poco faremo delle cose meravigliose dal punto di vista del suono. L'altro pezzo, Sergio, che abbiamo in scaletta? La traccia numero 5 si intitola Ci sono giorni. Perfetto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ci son giorni, ti aspetti come mai. Ci son giorni, altri giorni, che invece neanche sai. Dove son finiti i tuoi pensieri e miei, lo so. Corre il fiume, l'acqua scorre, scende a valle dei tuoi no. Giorni senza fine sulla strada, ci son giorni oltre il mare che ti aspettano lontani, le città di un'altra patria che non senti tua, e lo so, c'è una strada che si perde tra le cure dei tuoi no. Giorni d'America, di polvere, di strada. Giorni d'America, comunque vada. Giorni di bevute dentro i bar, ci son giorni appesi a un filo, poi degli altri senza lei, le canzoni disperate di Lucinda nei drive-in, luci in macchine fantasmi che ti seguono fino a qui. Giorni d'America, di polvere, di strada. Giorni d'America, comunque vada. We'll be right back. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E questa sera in Blu Radio Sera siamo in compagnia di Tiziano Cantatore e questa era la sua quinta traccia dal disco Di Parole e di Musica. Il titolo del brano era Ci sono giorni. Maurizio, ci siamo proprio buttati a Nashville quanto. Sì, Tiziano, sì, proprio sì. Nashville. E poi quel bel suono che hai fatto con la chitarra dobro, Antonio. Sei te che ricami il pezzo in questo momento. Sì, come sì, l'ha ricamato? L'ha ricamato benissimo, cosa dici Tiziano? Sì, sì, c'è dobro, chitarra elettrica. Con la chitarra elettrica. Dobro, chitarra elettrica. Sì. Cosa meravigliosa. Un proprio suono, a Nashville. Un suono Nashville. E poi ci siamo proprio buttati a Nashville qua. Beh, il disco è masterizzato a Nashville. Ma si sente anche l'odore. Sente l'odore di Nashville. Di Nashville. Ma li abbiamo fatti tribulare, sai, gli americani. Non sì, è, come non mai? No, nel senso, non pensare ci siamo accontentati delle prime tracce che ci hanno. Ma com'è stato l'impatto a registrare il disco a Nashville? No, il disco è registrato a masterizzarlo, insomma. Beh, sai che adesso, insomma, queste cose avvengono via internet. Esattamente. Quindi, però abbiamo dato delle indicazioni molto precise e poi chiaramente eravamo molto gasati del fatto che, insomma, a Nashville le chitarre acustiche le sanno trattare. Certamente. Quando ci hanno mandato i primi campioni... Antonio è stato soddisfatto subito. Non sei stato soddisfatto. No, Antonio anche lui è critico. Anche. E io e soprattutto anche il nostro tecnico. Il nostro fonico. Sì, a parte Davide Cantatore. Che questa sera ha registrato. Mm-hmm. Poi anche Stefano Chionetti che ha realizzato tutto il messaggio, sì, e ha comunicato, diciamo, con gli americani. E spesso facevamo rifare delle cose perché volevamo il suono preciso come l'avevamo in testa noi, insomma. Quindi, però rimane sempre una bella cosa aver lavorato con gli americani. Insomma, il disco del resto lo richiedeva. Sì, il disco non dico si avvicina, però a quell'idea di Stati Uniti, di Stelle e Strisce, però in una certa maniera la tua idea praticamente. Sì, sì, sì, ma è un bel mix di musica, sì, italiana. Sì, qualcuno ha scritto anche che c'è un po' di cantautorato tra virgolette, qualche critico, ma giustamente. Certo. Infatti, cioè, la mia musica comunque proviene da lì, insomma, no? Esattamente. Bene, sono le 21:40, visto che dobbiamo recuperiamo cantando e suonando, chiaramente. Che cosa, Tiziano e Antonio? Cosa cominciamo stasera? Questo live meraviglioso allora, fino alle 10:40? Facciamo Il segreto di Johnny, che è comunque una canzone che fa parte del CD. Del CD, e quindi la facciamo sentire così in acustico. Ok, ok. Il mestiere di Johnny era di non lavorare, di affilare il suo tempo come un coltello, di vivere in punta di piedi e sparire, di corsa, di notte. La morale di Johnny era farsi pagare, naufragare sui giorni come un battello, galleggiare sul mondo senza farsi ferire dai sogni, dai soldi e scappare dove l'acqua è più alta e più fonda ed il fango ti vuole portare più giù, dove non tocchi più. Il segreto di Johnny era tergiversare, quando il tempo scadeva là sul più bello, una frase distante e dopo scappare, di corsa, d'estate. E la gente di Johnny dice di non sapere, l'hanno visto sul fiume al tramonto a pensare, C'è chi dice ha trovato una strada e l'amore lontano, finalmente distante, dove l'acqua è più alta e più fonda ed il fango ti vuole portare più giù, dove non tocchi più, dove non tocchi più, dove l'acqua è più alta e più fonda ed il fango ti vuole portare più giù, dove non tocchi più, dove non tocchi più. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Che bella atmosfera, vero Sergio? Questi impasti vocali, bellissimo. Non siamo in California, ma siamo qua a Padova, però, però a stelle stisse c'è questo, umore, Non è che solo gli americani sanno fare il country, insomma. Anche loro sono americani, loro sono italiani, sono come impasti vocali sono perfetti, ragazzi. Bene, grazie. Perfetti, veramente. Fa piacere. Che bello, questo pezzo, Tiziano, come l'hai creato? Dove è nato praticamente? Beh, questo voglio dire, è chiaramente una ballata. Una ballata. Una canzone che nasce così per raccontare una storia, come la tradizione delle ballate. Insomma, certo. Quindi non ha un risvolto legato a qualche momento particolare, racconta semplicemente una storia, ecco. È inutile spiegarlo perché poi diventa spiegare le canzoni, sì, non è mai certamente. Ecco, niente, quindi questo è appunto il segreto di Johnny. Se vuoi facciamo facciamo subito un altro pezzo? Sì, facciamo un altro pezzo e poi parliamo di altre cose del disco, solamente. Che pezzo adesso avete scelto? Così? Facciamo Dove. Che è un pezzo molto interessante anche quello, come tutto il disco è interessante secondo me, sì. Molto molto interessante. Dove, che è la traccia numero 2 nel disco, sì. La facciamo live praticamente. Sì, la facciamo live, questa è la curiosità di questo sì, pezzo. Sì, esattamente, c'è una curiosità, la puoi dire chiaramente. Che il testo è di Tiziano Sclavi, insomma il papà di Dylan Dog. Dylan Dog, ecco, esattamente. Quindi. Che ha già collaborato con te anni fa. Ha già collaborato nei miei precedenti dischi, e quindi questa è una canzone che abbiamo voluto inserire in questo nuovo album. Appunto si chiama Dove, le parole sono di Tiziano Sclavi e la musica mia. Ok. Adesso ve la facciamo sentire. Dove posa la testa per dormire il pesce cane, dove l'eschimese pianta l'albero del pane, dove grida il muto ed il folle può dormire, dove il vino forte non ti fa morire, dove issano la vacca fino in cima al campanile, dove un assassino cerca un alibi sottile, dove non c'è domani per la via del tabacco, dove il siù che dorme al fuoco del bivacco, dove gli eroi di carta si incontrano per strada, dove dei neri corvi non esiste la masnada, dove per un bacio ti regalano l'Islanda, dove non c'è risposta perché non c'è domanda. Dove senza pudori può vivere un marziano, dove la Diomedea si sposa al melograno, dove dappertutto c'è l'odore di provincia, dove il volo mozzo dei gabbiani ricomincia, dove il mondo è fatto a righe come in una stampa antica, dove riposare non costa più fatica, dove il cielo è un rompicapo di frammenti da trovare, dove non serve scrivere ma basta immaginare. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E allora questa sera con noi c'è Tiziano Cantatore, lo stiamo conoscendo anche il suo disco di parole e di musica. Maurizio. Sì, volevo sottolineare la colorazione che fa Antonio di questo pezzo. Grazie, l'hai, grazie. L'hai colorato proprio musicalmente. Tiziano ha dato l'input vocale, tu l'hai colorato con gli arpeggi della chitarra. Adesso hai un'acustica stasera, ma tu suoni un sacco di tipi di chitarra, mica solo l'acustica. Lui Cesella. Con la chitarra Cesella. Noi le chiamiamo pennellatine. La pennellatine vanno bene. Visto che ci siamo, Tiziano, citiamo questi tanti musicisti che hanno collaborato a questo splendido album. Sì, certamente. Sono musicisti che la maggior parte fanno parte di questa band che ho messo in piedi, che si chiama la Capitani Coraggiosi Band. Esattamente. Quindi, quella è una bella iniziativa. Una bellissima band. Dove giri? Che luoghi frequenti musicalmente? Noi adesso sai che dobbiamo partire per questo tour. Never Ending Tour. Perfetto. Cioè che si sa quando... Non si sa quando finisce, ma a differenza di quello vero, non si sa neanche quando inizia veramente, perché abbiamo avuto un problemino che il nostro bassista, che lo salutiamo, il nostro Giovanni Scagno, ha avuto un problemino di salute e allora abbiamo preferito aspettare, però abbiamo fatto già qualche uscita. Comunque, la band, che è formata appunto da me alle chitarre, e Antonio Mazzei, e Giovanni Scagno al basso, Gino Galeani alla batteria, e poi la voce femminile che sentirete poi più avanti è di Federica Molteni, che è la nostra vocalist. Ecco, quella dà un certo tocco alle cose. Eh beh, certamente. Decisamente, un tocco pregiato, possiamo dire questo. Poi naturalmente al disco hanno partecipato anche altri musicisti, Alberto Fusetti, poi mio figlio Matteo Cantatore, che suona la batteria in Ci sono giorni, il pezzo che abbiamo ascoltato prima. E poi ha collaborato Riccardo Zappa, che è un nome che non ha bisogno di presentazioni. Non ha bisogno di grandi presentazioni, ha sempre collaborato nei miei dischi anche precedenti, e in questo disco ha collaborato, ha suonato con me un pezzo, e poi mi ha regalato una bonus track, poi alla fine ha interpretato un pezzo alla sua maniera, e questo è stato molto, molto carino, insomma. Parlavamo appunto del nostro direttore artistico, che salutiamo, qui presente, Alberto. C'è anche lui, figlio, sì, Davide, esattamente. Cantatore a Lemond, oltre che poi produttore, produttore del disco, al piano, sì. Certo, produttore, sì, è tecnico, ha fatto un po' di tutto. Davide è oltre che essere mio figlio, ma collabora pienamente con me e con chiaramente con i lavori che faccio. Parlavamo con Alberto prima del disco di Riccardo Zappa, ricordavo un disco famoso di Riccardo Zappa. Una volta Riccardo Zappa era anche in classifica in Italia con i dischi solisti suoi per chitarra. È diventato un musicista di grande fama, di grande importanza. Oltre ad essere un chitarrista straordinario. Infatti, quindi noi siamo amici da tanto tempo, e quindi ha collaborato in tutti i miei dischi, anche nei primi. Quelli appunto degli anni 70, dove già cominciavamo a trafficare con gli strumenti per registrare. Certo. Ci sono degli aneddoti incredibili di quei possiamo citarne uno di quei periodi. Se può. Quando Riccardo portava lui appunto registrava in modo autonomo i suoi lavori, e portavamo questo, il Revox, quel famoso Revox, il Revox, registravamo le basi su Revox e andavamo poi negli studi di registrazione, che avevano naturalmente miliardi di attrezzature, e ci vedevano arrivare con questo Revox, dove noi avevamo preparato le basi della chitarra, e ci guardavano storti perché i tecnici non erano molto, molto aperti per quel tempo, quindi ci guardavano storti, e noi arrivavamo con questo Revox con le basi sulla chitarra e dici: guarda, la chitarra la devi prendere da qui. E quindi loro rimanevano un po' così. Poi una cosa dobbiamo citare: io al microfono spento ho parlato con Antonio. Antonio ha suonato con dei gruppi progressive degli anni 60 italiani. No, ho suonato. Facevi il gruppo spalla. Beh, li hai conosciuti praticamente, li hai conosciuti. Perché io ho fatto parte di un gruppo, il più famoso gruppo sconosciuto della Lombardia. Sì, perfetto. Però eravamo famosi senza avere mai inciso, cioè, giravate, avevate un certo seguito, però non avevate. Siccome facevamo progressivo anche noi, e allora accompagnavamo tutti i gruppi, ci sceglievano apposta per accompagnare Stormy Six, Biglietto per l'Inferno, all'epoca 3. Di Rocky o dopo Rocky? Quando Rocky non c'era più, o c'era ancora Rocky? Rocky ha fatto un solo disco. Solo disco, esatto. Poi se n'è andato. Dopo Rocky, praticamente. Tutti, abbiamo partecipato anche a alcuni raduni pop dell'epoca. Insomma, ci è mancato poco. Ci è mancato poco di incidere un album, praticamente. Però, insomma. Poi diciamo che eravamo giovanissimi, abbiamo avuto paura di perdere il lavoro, queste cose qua, allora abbiamo perso il treno, lasciato, però io sono sempre andato avanti. Certamente. E parlando di questo disco, Tiziano, c'è questo, tu hai parlato degli Stati Uniti, chiaramente c'è un collegamento con gli Stati Uniti, ma anche il collegamento con gli Stati Uniti e il gruppo, la band allargata, questo è un collegamento con le realtà americane. Sì, sì, ma non solo questo, ma anche il modo di registrare. Tu, il disco l'abbiamo registrato cioè la base è quasi in diretta, insomma, il sistema come usano gli americani, sai che si mettono tutti intorno, batterie, basso, tutti quanti via, e partono e registrano, chiaramente si perde un po' il suono è un pochino più vivo, ecco, sì. E quindi si acquista in anima, assolutamente. Quindi io ho voluto ricreare questa atmosfera, e abbiamo registrato così, in questo modo, ecco. Al limite lasciando anche qualche imperfezione, ma assolutamente doveva essere registrato così questo disco. E poi, vabbè, chiaramente le chitarre acustiche si prestano anche. Certo, assolutamente si prestano. È un bel suono, c'è poco da fare. Quando abbiamo sentito io e Alberto più di una volta, l'abbiamo subito amato, che il suono era bello, il suono cominciava a penetrarti, a prenderti assolutamente, senza nessun problema, senza difficoltà. Guarda, questa è proprio è stata veramente una grande soddisfazione, questa qua, quella che stai dicendo del suono, perché abbiamo lavorato tanto sul suono, sull'atmosfera che doveva venire doveva emergere da questo lavoro. Ed è stata quella che adesso, dalle prime anche recensioni che ci hanno fatto, sono positive decisamente. Assolutamente, e tutti hanno rilevato questo suono. Questo suono esatto. Che è la chiave di volta giusta del disco. Perché il suono, poi tu lo sai benissimo, può essere anche un suono sporco alle volte, però ha un'anima. E allora quando lo senti, quando senti i legni delle chitarre, quando senti le dita che scorrono sulle chitarre, senti la batteria che è lì presente, ecco, questo poi dà valore. Poi hai dato una bella immagine, le dita che scorrono sulla chitarra, che bello, è una bella immagine questa qua, secondo me. Molto bella. Cosa abbiamo scelto, Sergio, come scaletta adesso da sentire? Abbiamo la traccia numero 6 che si intitola Stella, se vogliamo andarla a sentire. Sì, sentiamo subito. La sentiamo subito, eccola qui. Cadente, stella di periferia, promesse, fuoco e dolci parole. Stella, rimani ancora qua e guida guida i sogni di questa città. Stella, sparisci per poi tornare, lasciati solo per poco guardare. Stella lucente, stella di periferia, guarda sta gente che spera davvero. Stella, rimani ancora qua e guida i sogni di questa città. Stella, sparisci per poi tornare, lasciati solo per poco guardare. Cadente, stella cadente, striscia nel buio, striscia nel buio, gioco di luce, gioco di luce, dentro i tuoi occhi, dentro i tuoi occhi, stella rimani ancora qua, sospendi il fiato alla città. Stella, sparisci per poi tornare, lasciati solo per poco guardare. Stella cadente, stella crudele, stella dell'uomo che aspetta domani. Stella, rimani ancora qua e guida i sogni di questa città. Stella, sparisci per poi tornare, lasciati solo per poco guardare. Lasciati solo per poco guardare. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora, abbiamo passato le 10 da quasi due minuti. Siamo in compagnia all'interno di Blu Radio Sera su Blu Radio Veneto di Tiziano Cantatore. In studio, in questo momento che vi parla, c'è Sergio Bortolami. Dall'altra parte del vetro, insieme al nostro, ai nostri ospiti, perché non c'è solo Tiziano, c'è la voce di Maurizio Calzavara. Maurizio. Sì, abbiamo, cioè io, Messico e nuvole non c'entra assolutamente, perché Iannacci è un altro mondo, però Messico sì, Tiziano. Grande Iannacci. Grande Iannacci, grande, grandissimo. Dimmi, Antonio. No, no, grande, anch'io dicevo. Ah, dicevi, è grande, sì, però c'è il Messico. Antonio citavi Los Lobos, io citavo Alejandro Escovedo, quindi musica messicana, Tex-Mex, sì. Possiamo dire questo. In questa canzone qua, sì, c'è un bel riferimento alla musica messicana, ci sono queste chitarre, questo modo di suonare. Che richiama sicuramente un po' Hidalgo, di Los Lobos, sì, okay. Sì, sì. Proprio lui. E quindi poi vabbè, il testo è un testo particolare. Beh, la canzone si chiama Stella Cadente Mexico Star. Certo, quindi il richiamo è più che evidente. Ha un collegamento. Adesso parliamo una cosa molto interessante che io e Tiziano ed Antonio abbiamo parlato prima di cominciare il programma, il discorso delle cover. Qua parliamo, adesso tu farai una cover di John Prine. John Prine è un musicista straordinario americano, molto amato negli Stati Uniti, un po' meno in Italia, ma ha una sua nicchia anche qui da noi, sì, assolutamente. Sì, beh, in America è molto, molto amato, molto conosciuto. Io ho, tra l'altro, in questo disco poi sì. c'è una cover di John Prine, un'operazione difficilissima, molto, molto rischiosa anche per me, perché ho toccato uno dei capisaldi delle canzoni di John Prine. Una delle più famose, possiamo delle dire. Le più famose, naturalmente non in Italia, ecco, però è stato molto interessante, ecco, fare la cover di Lake Marie nel caso del disco. E comunque le cover, ecco, nella mia intenzione sono è proprio una ricerca di dare nuova vita alle canzoni, quindi non è cercare il pezzo famoso per vendere di più il disco o comunque per ottenere un applauso scontato, cioè anzi proprio è quasi l'opposto. Questa è una cosa che mi porto dietro da quando suonavo ancora da ragazzo. Io facevo i lati B delle canzoni, okay, sempre, no? Poi la gente arrivava e diceva: ma questa è vostra, no? Diceva, perché la riconosceva. Invece adesso è diventata proprio una ricerca. Ti dicevo prima, quando chiacchieravamo su questo argomento, che delle volte trovare una cover ci vuole una grande passione e una fatica, quasi come a comporre un nuovo brano, perché è veramente la voglia di ridare vita a una canzone. Ci sono migliaia di canzoni che viaggiano nell'aria, mi piace pensare, certo, no? Certo. Le canzoni viaggiano nell'aria, la musica è straordinaria proprio per questo, no? Ma il discorso è proprio di così di non definire un brano musicale all'uscita di un disco, ad un momento. Le canzoni possono essere riprese perché sono magari nuovamente attuali, perché sono delle cose meravigliose, perché sono dei momenti che è bello riascoltare. Allora ecco, in questo momento, in quel modo lì, la cover diventa una canzone che fai tua, e difatti è molto interessante. Tra l'altro, una cosa curiosa è che di questo disco qua ho fatto questo brano Lake Marie, ed è il brano che è scaricato maggiormente abbiamo detto, sì, negli store, anche in America, che non so perché è fatta mezza in italiano e mezza in inglese. Tu hai detto una cosa giusta: fare tu il brano, cercare di valutarlo, di prenderlo, di trasformarlo. Un episodio eclatante è stato quello di Johnny Cash quando ha fatto One. L'ha rifatto in maniera strepitosa, è diventato un brano di Johnny Cash, sì, non sì, è sì, più sì, un brano sì. di Bono, è quello importante. E questa operazione è un'operazione giusta, perché una volta negli anni 60 si prendeva la cover e Mogone sa qualcosa e la traduceva, per modo di dire, sognando la California, sì. Dick, niente da dire di Dick, ma Dreaming California era un'altra cosa. Ma era per farla diventare un successo. È per farla diventare un successo. Qui parliamo di altre cose, è un mondo differente. È una riscoperta, è dare nuova vita a tutte queste migliaia di canzoni che magari hanno suonato per pochi a volte, o se no per troppo poco. Esattamente, per troppo poco, hai detto una cosa giusta, per troppo poco. Sentiamo questo pezzo di John Prine. Sì, questo non è Lake Marie, ma si chiama Souvenir. Ok. All the snow was turned to water, Christmas days and come and gone, broken toys and fed and colors, all are left to linger on. I hear gray owl elder pen shops, for they always bring me tears. Can't forget the way they robbed me of my children's souvenir. Memory, they can be burden, they can be wall, they can't evolve for free. We took me here to get a souvenir. They don't know they're slipping away from me. Broken heart and dirty windows make life difficult to see. That's when last night and this morning always look the same to me. I hear reading of love letters, for they always bring me tears. I can't forget the way they robbed me of my sweetest souvenir. Memory, they can be burden, they can be wall, they can't evolve for free. We took me here to get a souvenir, and don't know they're slipping away from me. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ok, benissimo, che bella, che bella. Cito una frase di Chris Christopherson, ragazzi. Praticamente è la frase di presentazione al primo album di John Prine, che nel CD non è stata però riedita praticamente, solo nel disco. Scrisse all'epoca Chris Christopherson: non so da dove venga, ma ho un'idea precisa su dove stia andando. Siamo andati via col ricordo di quanto sia magnifico essere scossi da una vera immaginazione. Parlava sì. Così di John Prine. E Chris Christopherson di cantautori se ne intende. Cioè, esattamente. Bello, è stata meravigliosa questa versione che avete. Questa riproposizione, possiamo dire, a vostro piacimento di, certo, di un pezzo di John Prine. Certo. Perché, cioè, dimmi. Infatti, anche dal vivo noi suoniamo spesso delle cover appunto scelte, ecco, anche a parte quelle presenti nel CD, ma anche altre, anche di altri autori, dopo magari possiamo accennarne anche qualcun altro. E scelte sempre mirate, per cover, certo, mirate naturalmente, sì, che vestano quello che sono, esattamente, che sono io, che è il mio modo di vedere la musica e di suonarla, ecco. Ok, 22:11, stiamo piacevolmente dialogando, conversando, parlando di musica con Tiziano ed Antonio. Abbiamo un tempo, sentiamo un altro pezzo. Cosa dici in scaletta, Sergio? Sì, hai preparato la traccia numero 7 che si intitola La neve copre, ce l'ascoltiamo. Ok. Ho già visto e rivedo soltanto guerre e miserie. solo un incendio. Sembra tutto che nasca per caso, senza una storia, senza una trama. Troppa gente per strada a cercare un pretesto per non star da soli. Quando il cielo è più scuro, ma la notte rischiara, quando senti quei passi cambiare la strada, la neve copre e sembra non far male, la neve copre e pare sia sempre Natale, la neve copre e tutto rimane com'è. Quanti sogni vestiti di nero, banditi in aria senza un padrone, parlano tutti del Dio quello vero che prende l'anima delle persone. In fondo il cielo per tutti è lo stesso, non ci accorgiamo che siamo distanti, milioni e persi in questo universo, brilliamo tutti come diamanti. Quando il cielo è più scuro, ma la notte rischiara, quando senti quei passi e cambiare la strada, la neve copre e sembra non far male, la neve copre e pare sia sempre Natale, la neve copre e tutto rimane con me. Sembra non far male, la neve copre e pare sia sempre Natale, la neve copre e tutto rimane com'è. Sì, tutto rimane com'è. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed era La neve copre di Tiziano Cantatore, il nostro ospite di questa sera all'interno di Blu Radio Sera su Blu Radio Veneto. La parola a te, Maurizio. Sì, adesso abbiamo deciso, Tiziano, Antonio e il sottoscritto, di far sentire qualcosa di molto interessante. Una facciamo una cover un po' particolare, perché abbiamo citato Anna Identici. Anna Identici, che era una musicista, una ragazza, una cantante, possiamo dire una cantante, sì, che giustava ben volentieri nei festival di Sanremo degli anni 60. È una cantante di musica leggera, assolutamente di musica leggera. Poi ha avuto una svolta a un certo periodo. Esattamente, ha deciso cambiamo. L'aveva fatto anche Giuni Russo questa cosa qua all'epoca. Sì, Anna Identici poi ha deciso questa cosa e naturalmente il successo l'ha abbandonata. E l'ha abbandonato. Perché ha fatto delle scelte impegnative e quindi ha voluto cantare cose differenti. Comunque questo è il brano che adesso magari appunto lo suoniamo, Quando sarò ricco, in realtà è Quando sarò ricca, esattamente. Ecco, è un brano del 72, esattamente. Ecco, un brano del 72, e è stata una delle canzoni che ha segnato la svolta, ecco, dalla musica leggera per una musica con dei risvolti un pochettino più sociali, leggermente, certo. E poi da lì lei so che ha fatto poi altri dischi molto, molto interessanti, ecco, proprio come scelte anche di una cultura musicale. So che ha fatto delle canzoni sulle donne, sulle lavoratrici, insomma ha fatto un sacco di belle cose. E quindi questo vuol rappresentare semplicemente un omaggio a Identici e a questa canzone che mi piace da sempre. Perfetto. Quando sarò ricco, te lo giuro, non prenderò più il treno pendolare, col gelo che ti inchioda contro il muro, e stanco che non riesci a camminare. Quando sarò ricco, per dispetto, butterò la sveglia nel torrente, fino a mezzogiorno starò a letto e fino a sera non farò un bel niente. Il treno fischia con la voce rotta, apro gli occhi di piombo su sta vita. Non c'è più gioventù sulla tradotta, quando si sogna vuol dir che è già finita. E quando sarò ricco, manovali, addio balera, addio periferia, mi vedrete talvolta sui giornali, sempre più bello e in buona compagnia. E quando sarò ricco a quel paese, tutti sti vestiti un po' alla buona, andrò a Parigi a fare le mie spese, ed ogni giorno vita da padrone. Il treno fischia forte nella nebbia, apro gli occhi di pianto su sta vita, dentro il cuore c'è tutta la mia rabbia, dentro nel sangue so già d'esser finito. Il treno fischia forte nella nebbia, apro gli occhi di pianto su sta vita, dentro il cuore c'è tutta la mia rabbia, dentro nel sangue so già d'esser finito. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Era un pezzo già bellissimo all'epoca, quello di Anna Identici, adesso è riveduto e corretto, ma con la tua sensibilità, Tiziano, è stato un tuo pezzo, possiamo dire, sì, così. Sì, sì, assolutamente. Ha proprio, sente la fusione, no, la musica d'autore italiana e poi quei tocchi che Antonio dà. Esatto, Antonio ha dato. Lo puoi rifare un momento quel tocco che hai fatto, con quel suono un po' particolare, Antonio, che dà un certo senso alle cose. La slide. Slide. sarebbe soddisfatta anche agli identici, secondo me. Speriamo che la assolutamente. Oh, una cosa molto bella, decisamente. Dobbiamo accelerare purtroppo, ma io voglio sentire ancora musica, chiaramente. Abbiamo deciso, con Antonio e con Tiziano, di far sentire Tom Paxton. Chi è Tom Paxton? Non è un musicista molto conosciuto, però è un musicista ancora di nicchia anche lui. Cantautore americano, molto amato dall'intense blend americana del cantautorato, possiamo dire così? Sì, sì, sì, un cantautore molto, molto importante. Molto importante, significativo, ha fatto una certa scuola, ha portato avanti un certo discorso Tom Paxton. Come mai fai una cover di Tom Paxton, un musicista così un po' al di fuori dei soliti circuiti, Tiziano? Ma per lo stesso ragionamento che abbiamo fatto prima, insomma, questa ricerca, no, tra queste perle che perdute, che ma perdute, da riprendere, sì, assolutamente. Da riprendere assolutamente. The Last Thing on My Mind. Ecco, te l'ha detto adesso. ma è tutto dal vivo, tutto in diretta. Le cose sono belle così, decisamente. Sì, questa ricerca delle cose perdute, delle cose da ritrovare, da risentire, da riascoltare. Certo, sono canzoni splendide. Questa non fa parte del disco, però è una canzone che noi suoniamo nei live. Così è bello proprio riprendersi queste canzoni. A me piace moltissimo, ecco, fare queste, interpretare le cover in questo modo, ecco. Con la band, quando suoni dal vivo, chiaramente con la band allargata, sì. Com'è il discorso della cover di Tom Paxton? Come la suonate? Acustica? Fantastico, fantastico, perché viene molto bene con il basso. Abbiamo usato qualche volta il basso acustico, adesso abbiamo ripreso invece a usare il basso elettrico. Basso elettrico. Con il batterista che dà un certo tocco. Dà un tocco così di fino. Esatto, di fino, hai detto una cosa giusta. Gino di fino. Gino di fino. Ok. Quindi, no, vengono molto, molto bene, insomma. Perché poi in realtà dobbiamo riarrangiare le cose quando facciamo io e Antonio, ovviamente, poi invece quando suoniamo col gruppo le cose vengono un po' riarrangiate. Certo. Differente. Ok, andiamo. Aspetta, Antonio, devi... Sì. È bello, tutto in diretta. Prima aveva... Ok. Is a lesson too late for the learning? Made of sand. Made of sand. In a wind, oh, now my soul is turning. In your realm, in your realm. Are you going away with no word of farewell? There have been all the traces left behind. I couldn't love you better. It means to be unkind. You know, was the last thing on my mind. You got a reason, a plan for going. This I know. For the wind, I'll be a standing growing. Please don't go. Please don't go. Are you going away with no word of farewell? There have been all the traces left behind. I couldn't love you better. This means to be unkind. You know, was the last thing on my mind. as I lay in my bed in the morning, without you, without you. Every song in my breast dies burning, without you, without you. Are you going away with no word of farewell? There have been all the traces left behind. I couldn't love you better, this means to be unkind. You know, was the last thing on my mind. Do you know, was the last thing on my mind. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Io ho chiuso gli occhi e pensavo di avere qui in studio con noi gli America. Esatto. O John Dan, o una copia di John Dan. Cosa dici? No, veramente bravi, eccezionali. No, sì. Bellissimo. Poi, pezzo di Tom Paxson, era un sacco di tempo che non lo sentivo più, francamente. È una vita. Straordinario, questo è un pezzo molto bello, sì. Una cosa devo ricordarti, Tiziano, dove si può trovare il tuo disco praticamente? Che riferimenti mi dai per cercarlo? Allora, intanto è possibile acquistarlo in tutti gli store digitali, è possibile scaricarlo, quindi, e poi è distribuito IRD, quindi lo si trova dove la distribuzione IRD arriva, in realtà sono i negozi specializzati. Probabilmente non lo si trova al supermercato, però quello fa parte del gioco, e degli indipendenti, insomma. Certo. E poi naturalmente anche dal mio sito www.tizianocantatore.it, da lì è possibile poi acquistare il disco. Ok, adesso abbiamo fatto l'operazione commerciale. No, è giusto che sia così. La gente, se vuole sentire il disco, vuole averlo fisicamente. Fisicamente, anche perché è bello, è fatto. È in una bella confezione. Esattamente, è fatto bene, è costruito bene. Adesso sentiamo la title track, come si dice all'inglese, la title track, cioè il tema, cioè praticamente chi è il titolo del disco, di parole e di musica. Una breve presentazione a questo pezzo, Tiziano. Beh, il pezzo che di parole e di musica. Intanto dalla dedica capisci che cosa mira, insomma, è dedicato a tutti i sognatori, no? Che si cibano e vivono di parole e di musica. Tra l'altro è dedicato anche alla città di Lowell, Massachusetts, che è la città natale di Jack Kerouac. Il pezzo è cantato sia in italiano che in spagnolo e in inglese, questo proprio per dare un senso universale, ecco, alla musica. Di parole di musica, niente, vale la pena ascoltarlo. Sì, e la traccia numero 10, mi pare. La traccia numero 12. Pardon, numero 12, ecco una cosa. Dimmi. La voce solista femminile è di Federica Molteni. Che merita assolutamente, insomma, di essere citata. Di parole di musica, Tiziano Cantatore. Gli occhi pesano e stanchi di guardare le stelle, di scrutare l'oceano e le luci di Lowell. Passa il tempo e ti accorgi, quel che conta è che vale. Non sai più quando è notte e hai salito le scale. Di parole e di musica hai riempito la vita. Di parole e di musica hai mangiato e bevuto. Di parole e di musica ti è rimasto il ricordo. Di musica hai riempito il tuo mondo. Che tale starsi, amico mio, te muestra el camino di parole e di musica. Hai riempito la vita di parole e di musica. Hai mangiato e bevuto di parole e di musica. Ti è rimasto il ricordo di parole e di musica. Hai riempito il tuo mondo. It passes from these roads. For some it's fame and the fortune, for others to be alone. But one day on the radio you can hear a love song. Stops the car on the line and your dreams are so long. Parole di musica, hai riempito la vita di parole di musica, hai mangiato e bevuto di parole di musica, ti è rimasto il ricordo di parole di musica. Hai riempito il tuo mondo. Di parole e di musica hai riempito la vita. Di musica hai mangiato e bevuto di parole e di musica. Ti è rimasto il ricordo di parole e di musica. Hai riempito il tuo mondo. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. L'ultima parte ormai del nostro incontro con Tiziano Cantatore. Maurizio. Sì, abbiamo concluso questa cavalcata bellissima con Tiziano ed Antonio. Di Piligame, come il titolo del disco, Tiziano? Di parole di musica. Di parole di musica. Tiziano Cantatore. Tiziano Cantatore, che è uscito da poco tempo, quindi si può trovare nei riferimenti che hai citato prima. Tiziano, è stata una bella serata, una bella cavalcata nella musica di Tiziano, con qualche riferimento americano, ma assolutamente la musica di Tiziano. Poi i riferimenti americani vengono e vanno, perché fanno parte del DNA tuo, Tiziano. Certo, tutto certo, là. Certamente. Concludiamo con un pezzo di John Prine, che abbiamo già citato un sacco di volte, giustamente lo facciamo sentire, poi in coda, finito il pezzo, Tiziano ed Antonio eseguiranno qualcosa dal vivo per salutare i nostri ascoltatori. Grazie a Sergio Bortolami in regia, che è stato preziosissimo il suo contributo, grazie a Tiziano ed Antonio che sono tutti qua, grazie molto voi, lontano grazie per a questa voi, diretta, e a un prossimo appuntamento, Tiziano ed Antonio. Volentieri, quando volentieri. Ci sarà un'altra sempre occasione. Volentieri. Blu Radio Veneto sarà sempre disponibile per voi. Grazie. Salutiamo tutti gli ascoltatori. Grazie a voi e grazie della partecipazione. Buonanotte a tutti. Buonanotte per me. Poi ci sarà Renato col suo programma. Noi ci sentiamo domani con una band sempre dal vivo, dalle 22 alle 24, con Michele Tosò. Grazie e proseguiamo l'ascolto. Ok, bye bye. anni fa, lungo il confine tra Illinois e Wisconsin, c'era una tribù di indiani che trovarono due bambine nella foresta, bambine bianche. Una di loro fu chiamata Elizabeth. Era la più chiara delle due, mentre la più piccola e fragile fu chiamata Marie. Dato che non avevano mai visto ragazze bianche e vivevano su due laghi conosciuti come i laghi gemelli, chiamarono il più grande e il più bello Lago Elizabeth e il lago più piccolo, nascosto dalla strada principale, si chiamò per sempre Lago Marie. Anni più tardi mi sono ritrovato a parlare a questa ragazza che stava in piedi, voltata verso il lago Marie, con il vento che le soffiava tra i capelli, mentre quattro salsicce italiane cuocevano sfrigolando sul barbecue. Molti anni dopo ci ritrovammo in Canada a cercare di salvare il nostro matrimonio e magari a catturare qualche pesce, uno qualunque delle due cose. Quella notte lei si addormentò tra le mie braccia, canticchiando Louis Louai. Sì, ma adesso dobbiamo andare. Abbaiavano e le macchine parcheggiavano, gli strozzini strozzavano e quelli della narcotici cercavano soffiate. Praticamente erano tutti là, nel parcheggio vicino alla foresta. La polizia aveva trovato due corpi nudi. I loro volti erano stati orribilmente sfigurati da un oggetto tagliente. L'ho visto al telegiornale in un filmato in bianco e nero. Avete presente cosa sembra il sangue in un filmato in bianco e nero? Shadow! Ombre, assomiglia a delle ombre. Così tutto l'amore condiviso tra lei e me è naufragato, battuto sopra le rive del vecchio lago Marie. Lake Marie! feel sorry for a blind man. His soul is a bird on a wing. Why you might have an eyes like an eagle and never see the one blessed thing. Why I feel sorry for a landman and free that he may fall down. Why you might have legs like a razor and never get feel on the ground. It's alright, make it do. Do you find about you? Save all your tears for someone who lost by the ones call out. Why he might have a voice like an angel and nothing to say about. Yes, alright, make it do. Do you find about you? Yes, alright, make it do. Do you find about you?